Eccoci qua. Oggi abbiamo quasi un quarto d'ora, ti rendi conto? E allora mi distendo. Però tieni sempre il ritmo, perché sai, siamo in radio e funziona molto il ritmo. Capisco, nel ritmo non mi vuoi chiedere così, a quest'ora sono mezzo addormentato. Allora, abbiamo avuto Terroni con loro tutti in studio, è stato un piacere, tra l'altro li inseguivo da un po' di tempo, l'avevo visto al Quirino, lo spettacolo. Lo so che li inseguivi, era una... cioè, tu appannaggio ormai. Allora, questa settimana cosa ci attende, Simone? Allora, sarà una settimana piena di molti appuntamenti, soprattutto appuntamenti, insomma, diciamo tendenzialmente minori, no, come si presentano, però magari proprio per quello possono dare grosse soddisfazioni, chi lo sa, andiamo a vedere. Intanto, allora, partiamo da questo spettacolo di Valeria Bianchi. Sì. Valeria Bianchi è una... L'avremo in radio il 5, il martedì 5 marzo. A che fare? Lo spettacolo sul nonno, quello sul nonno militare. Ah, ok, quindi del rancio del campo di Bergen, esatto. Se non sbaglio. Sì. Una cosa del genere, credo proprio di sì. Il titolo... No, in questo caso... Com'è? Il titolo è A chi questo? A chi questo? No, quello è il titolo tutto insieme. A sì, chi questo, sì. Il rancio nel, esatto, campo di Bergen. L'abbiamo ricostruito bene. No, invece porterà il suo spettacolo di figura, lei è una artista che lavora molto con i pupazzi di carta, così proprio determinato, Non so e Non sa, saranno 23-24 febbraio al Teatro a Fabulazione, il 23, a Quinta Ostia, e al Teatro della Dodicesima, alle 16 alle 18, quindi sarà un doppio appuntamento per quanto riguarda la Dodicesima, quindi insomma, farà un suo tour fuori Roma, diciamo. Mentre ancora andiamo, anche mi alterno al... Simone, mi alterno a te per dirti. Vai, prego. La scorsa settimana sono andato a vedere Anna Bonaiuto, l'avevo avuta ospite qui al telefono, quindi sono andato a vedere lo spettacolo al Vascello, la Belle Joyeuse, Cristina Trivulzio, principessa di Bel Gioioso, appunto con Anna Bonaiuto, scritto e diretto da Gianfranco Fiore, al Vascello ancora fino al 24 febbraio, quindi tutta questa settimana, la vorrei anche avere in radio. Benissimo, allora io ti rispondo continuando con Valeria Bianchi, perché sarà invece in giorni precedenti alle... no, non lo sarà, perché mi hanno mandato un comunicato, no, ok, sì, perfetto, ho semplicemente sbagliato il comunicato, però l'appuntamento esiste. 22 e 23 di febbraio ci sarà ancora Valeria Bianchi con Pamela Sabatini, con questo spettacolo Ottaccia per sempre, 22 e 23 febbraio alle 21:30 al Forte Fanfulla, nell'ambito di Parabole fra i Sempietrini, nella versione extra, quindi fuori, diciamo, dalla stagione delle parabole, ma come una parabola extra, appunto. Continuo a segnalare il Pellegrino di Pierpaolo Palladino con Massimo Wertmüller, che incarna 24 personaggi al Teatro dell'Angelo per tutta questa settimana fino quindi al 24 febbraio. Benissimo, mentre ancora Teatro Italia, non ne parliamo mai, è il caso, dopo aver visto, ecco, la conclusione, sai, diciamo, ti sento un po' disturbato, Simone. Mi senti disturbato? Io sono disturbato. Tu sei disturbato, che... ok, adesso ti sento meglio, vai. Mi senti meglio, ecco. Dopo aver visto una bellissima Antigone, Ilaria Drago, al Teatro dell'Orologio, purtroppo è finita domenica, avrei voluto vederlo all'inizio per poterlo dire per tutte e due le settimane che stanno in scena, che bisognava andare a vederlo, e purtroppo ci arriva alla fine, quindi lo dico a spettacolo concluso. Ma c'è un'altra Antigone, un'altra Antigone, quella di Anouilh, che sarà per la regia di Maurizio Panici al Teatro Italia da questa sera fino al 24 di febbraio, curiosamente con Roberto Latini, cofondatore con Ilaria Drago di Fortebraccio Teatro, quindi fanno due diverse Antigoni, molto diverse proprio per, anche per nascita. qui con Roberto Latini, con altri attori, fra cui anche proprio Maurizio Panici, ci sarà Alice Spisa, Daniele Pilli, Rocco Pisulo e altri, le musiche di Stefano Saletti, lo ricordiamo Stefano Saletti insomma come animatore della la musica popolare di questa città da tanti anni ormai. Prego. E Bel Sol d'Amore, Libia-Italia, un secolo di storie, drammaturgia e regia di Anna Ceravolo con Alessandro Belardinelli e Piera Fumarola. Al Teatro dei Documenti ancora per questa settimana, quindi fino a domenica 24 febbraio, anche questo spero di averlo in registrazione qui al Radioteatro. Sì, anche questo sta un po' diventando come Terroni, insomma. L'ho sentito dire tante volte da te, sì. L'ho sentito in occasione, ma insomma. Dunque, allora, poi continuiamo, andiamo avanti, con, c'è anche l'Argentina, debutta alla Scuola delle Monti questa sera fino al 3 marzo, la Scuola delle Monti da Molière, con la regia di Marco Staccaluga, e insomma, protagonista ne Ero Spagni, spettacolo che era già stato ma in un'altra versione, quella di Walter Malosti al Teatro Valle nella sua ultima stagione dell'Eti, spettacolo giustamente minore, questo non lo so, vedremo, ci auguriamo di trovare qualcosa di meglio di quello. Poi questa era la settimana anche della danza al Teatro Palladium della Fondazione Roma Europa, che ospita Virgilio Sieni il 23 di febbraio con Cerbiatti del nostro futuro. È un appuntamento al secondo di Waiting for DNA, progetto curato all'interno del Teatro Palladium da Annalea Antolini, e coinvolge il neo direttore della Biennale Teatro di Venezia, Virgilio Sieni, che sarà appunto il 23 di febbraio all'Opificio Telecom Italia alle 18 e alle 20.30 con Fuga e In Ascolto, due pezzi del progetto Cerbiatti del nostro futuro che Virgilio Sieni porta avanti da questi ultimi anni, insomma, nell'ambito del più grande progetto sull'Accademia dell'Arte del Gesto, porta in scena da anni, no? Abbiamo visto insomma bambini, anziani, persone non propriamente attori, insomma, andare in scena con la cura di Virgilio Sieni. E quando dico cura, sto proprio dicendo cura. Oh, segnalo La casa della nonna di Nino Romeo, che dovremmo sentire al di fuori dello spazio radioteatro, oggi non potevano perché stanno in allestimento, che cura anche la regia ed è in scena insieme a Graziana Maniscalco e Gianna Paola Scaffidi al Teatro dei Conciatori da oggi fino al 24 febbraio, quindi questa settimana. Bravissimo, bravissimo, l'avrei ricordato io, fai bene. Allora io ti dico che questo sì, insomma, spettacolo. Ah, tra l'altro, scusa Simone, loro li avevamo già avuti ospiti al Radioteatro con un altro spettacolo in registrata che era Entro i limiti della media europea sulle morti sul lavoro, quindi loro sono una compagnia molto molto attenta sul sociale, vengono da Catania e tra l'altro stanno dentro l'esperienza del Teatro Coppola occupato. Ecco, giusto per bene. Dare una connotazione, abbiamo ancora 5 minuti, Simone. Benissimo, allora vado rapido. Fanculo il PIL dal 21 febbraio al Teatro d'Uso sarà fino al 17 di marzo. Abbiamo ricordato più volte, insomma, lo fanno da un bel po' ormai questo spettacolo. Sì. Questa sera debutto per la grande magia Edoardo De Filippo nelle mani del figlio Luca. Che sarà in scena appunto da questa sera fino al credo per 2 settimane, non mi è segnalato, va bene, adesso controllo rapidamente, giuro lo faccio rapidamente, sì, no, fino al 10 di marzo, quindi c'è tempo assolutamente per questa grande magia, sperando lo sia. Poi, questa è la settimana in cui ha già debuttato, sabato 16 sarà fino al 23 di febbraio Art Lost, quindi al Teatro India, il progetto nato all'interno di Perdutamente, 1000 persone per un'opera d'arte, assolutamente da attraversare, firmata Sangre Muta di Mago, La Casa d'Argilla, Maxandus di Insieme agli Artefatti, insomma davvero molti di questi MK, Masbedo, molti artisti romani e non, ma che a Roma lavorano, questi danno convegno normalmente al Teatro India chiuso, mentre aspettando i propri dai prossimi futuri. Nel frattempo torna al teatro. Ancora Simone, ti sento malissimo e comunque ne approfitto per rapidissimamente per segnalare, visto che l'ho visto la scorsa settimana, Qui e Ora, scritto e diretto da Mattia Torre con Valerio Mastandrea e Valerio Apre, anche se non mi ha convinto del tutto. Teatro Ambra Iovinelli fino al 3 marzo. Benissimo, posso andare? Vai. Senti? Vai, un paio allora, di minuti. Ok, In a Dark House, Nilla Butte, teatro come metafora, questa sera sarà fino al 3 marzo. Nilla Butte è uno dei più grandi drammaturghi contemporanei, due fratelli, un dramma familiare, sarà in scena questo spettacolo. Abbiamo detto al Cometoff da questa sera, è un drammaturgo americano che ha fatto anche tanto cinema questa estate. L'ultima estate è stato alla Biennale di Venezia nell'ambito del progetto di Alex Rigola, di progetto laboratoriale sul teatro. Poi ancora dunque, questa settimana in cui ancora c'è Lodin Theatret, Eugenio Barba all'Auditorium, spettacolo La vita cronica, che vedremo anche al Teatro Marcello più avanti, Teatro dell'Orologio invece, la volta di La voce umana di Cocteau, da domani, mercoledì 20 febbraio, sarà fino al 3 marzo al Teatro dell'Orologio. Questo è un testo, La voce umana, fatto da tantissimi attori in questi ultimi anni. Se ne ricordano anche, ecco, versioni con Anna Magnani, mi ricordo una versione di Rossella Orpo pochissimi anni fa. Ma al Teatro dell'Orologio ci andremo anche da questa sera per vedere fino al 10 di marzo in sala Gassman Valentina Feis con il testo di Noemi Serracini, Pazza per la tele, quindi fino al 10 di marzo per questo monologo al femminile sui 15 minuti di celebrità promossi dalla TV. Che altro dirti, Federico? No, non lo so, io ho chiuso e stiamo per chiudere. Ah, va bene, allora niente, Teatro Valle, dove verranno presentati questa settimana, in cui ci saranno le prove aperte del Romeo e Giulietta di Binasco, ci saranno anche degli spettacoli da parte degli attori che sono coinvolti nel Romeo e Giulietta di Valerio Binasco. Con il 20 febbraio, per domani, La guerra di Clam di Kensel, con la regia di Filippo Dini, mentre giovedì 21 febbraio sarà la volta di Me ne vado di Marcella Serli, e ci saranno invece per il fine settimana con gli appuntamenti particolari, perché venerdì 22 febbraio ci sarà la presentazione di un libro su Ingmar Bergman di Francesca Picozzi. In chiusura di serata la proiezione del documentario Fanny Alexander di Bjorkman, mentre domenica 24 febbraio sarà la volta di Brook by Brook, un ritratto sul grande maestro britannico che abbiamo appena visto al Palladium con il suo The Suite. Mentre ci sarà anche un'altra cosa al Valle in questi giorni, e cioè l'Election Night che sarà sabato 23 febbraio alle ore 22, l'ultima notte prima del niente, con tantissimi artisti, poeti, scrittori che saranno lì tutta la notte a seguire, diciamo, la notte elettorale, in attesa di scoprire che cosa accadrà. Mentre, come mi segnalavi anche tu, a Via dei Sabelli, sabato 23 febbraio, sarà la volta di prove tecniche di trasmissione dalle ore 19, che è qualcosa che in qualche modo ci riguarda la radio, la seconda tappa di un progetto portato avanti del Carbonia, se non sbaglio, sì, esattamente, dell'Accademia degli Artefatti, quindi una serata diciamo un po' al buio, dove però è assolutamente da andare a vedere. Ok, allora ci sentiamo martedì prossimo, baci e abbracci. Ricordiamo che per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@andarossa.info. ci potete ascoltare in streaming dal sito internet della radio, su Ascolta la diretta sulla home page, e poi abbiamo la pagina Facebook del Radio Teatro. Un abbraccio Simone, ci vediamo a teatro, spero. A presto, ciao.